La migliore danza si sincronizza con l'anima e il ritmo. Spezza il cuore dell'adulto pensiero che cammina tra le ombre, guidando su un'autostrada sotto la pioggia di Parigi, sui binari dei sogni, leggendo un giornale. Ti voglio, te lo dico, danzando, anche tuffandomi nel mare, abbracciando una finestra, respirando il tuo amore. Un'altalena silenziosa, dove abbiamo lasciato morire i nostri sogni, una musica ripetitiva, uscire dal ciclo dell'ingiustizia, a questo siamo chiamati, a non ripetere i gesti, superflue, cantilene, su bassi, ostinati. Amore mio, stai attento. Il vento sta portando via il nostro sonno. Dove occhio vede, vedo solo inganno. Solo inganno. Oh, ehi, oh, Gonti, Tincali, Tincodi, Tincali, Godi, Tincali, Godi, Tincali, Godi, Tincali, Godi, Tincali, Cali, Godi, Tincali, Godi, Tincali, Godi, Tincali, Godi, Tincali, Godi, Tincali, Godi, Tincali, Godi, Tincali, Godi, Tincali, Godi, Tincali, Godi, Tincali, Godi, Tincali, Godi, Tincali, Godi, Tincali, Godi, Tincali, Godi, Tincali, Godi, Tincali, Godi, Tincali, Godi, Tincali, Godi, Tincali, Godi, Tincali, Godi, Tincali, Godi, Tincali, Godi, Tincali, Godi, Tincali, Godi, Tincali, Godi, Tincali, Godi, Tincali, Godi, Tincali, Godi, Tincali, Godi, Tincali, Godi, Tincali, Godi, Tincali, Godi, Tincali, Godi, Tincali, Godi, Tincali, Godi, Tincali, Godi, Tincali, Godi, Tincali, Godi, Tincali, Godi, Tincali, Godi, Tincali, Godi, Tincali, Godi, Tincali, Godi, Tincali, Godi, Tincali, Godi, Tincali, Godi, Tincali, Godi, Tincali, Godi, Tincali, Godi, Tincali, Godi, Tincali, Godi, Tincali, Godi, Tincali, Godi, Tincali, Godi, Tincali, Godi, Tincali, Godi, Tincali,